Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica, tutto quello che possiamo trovare, tutto quello che di interessante possiamo trovare sui settimanali, sui vari periodici che sono in edicola in questo periodo. C'è una parola che sta ritornando di moda, meglio, la parola è protezionismo. Cos'è il protezionismo? Il protezionismo è una politica economica, un approccio che viene tradizionalmente contrapposto alla teoria del libero scambio e significa voler tutelare appunto le produzioni, le attività nazionali, le attività interne. Il protezionismo ha avuto molte fasi, già la parola sa un po' di secoli passati. Diciamo che il suo momento d'oro coincide per lo più con l'Ottocento in alcune precise fasi, quindi l'uscita dalle guerre napoleoniche e altro. È interessante notare che è una parola che torna di moda tutte le volte che c'è una crisi. Infatti, spulciando un po' tra i manuali, si ritrova che uno dei grandi ritorni del protezionismo è dovuto proprio alla crisi economica che era cominciata nel 1873. Anche allora questa crisi economica generalizzata aveva mosso i paesi europei, che all'epoca erano il centro appunto delle economie mondiali, a politiche protezioniste. Bene, adesso si riparla del protezionismo. A innescare il dibattito è stato il neopresidente degli Stati Uniti Barack Obama con il suo Buy American, comprate americano, uno slogan che volendo sa un po' di autarchia forse e che naturalmente ha sollevato diverse proteste non solo dei teorici ma anche da parte insomma dei politici di tutto il mondo. Al tema è dedicata la copertina eloquente dell'Economist che sulla questione ha una posizione molto chiara. Infatti la copertina mostra una serie di lapidi in cui sta scritto qui giace il protezionismo, la grande depressione e così via, e da queste lapidi spunta a sinistra una mano da sopra queste lapidi e il titolo è Il ritorno del nazionalismo economico. Quindi una presa di posizione molto netta, quella dell'Economist, che poi è ribadita dalle pagine interne. Per farvi capire, l'idea di battersi appunto contro il protezionismo viene ribadita già dall'editoriale, in cui si parla di uno spettro che sta ritornando, è necessario seppellirlo di nuovo e Barack Obama deve prendere il comando. A questo proposito, avverte l'editoriale dell'Economist, per sconfiggere queste tentazioni protezioniste che altrimenti, appunto, secondo il giudizio dell'Economist, sarebbero nocive. Della vicenda si occupa anche Newsweek. La stampa, diciamo, italiana non sembra ancora aver colto questo tipo di movimento, o comunque non in modo così evidente come accade su quella di lingua inglese. Il titolo di un'inchiesta della sezione business di Newsweek è le guerre commerciali che verranno, e si parla appunto di questa massiccia ingerenza dei governi nelle politiche economiche nazionali che possono portare a un disastroso protezionismo. Anche qui un giudizio quindi molto molto pesante ci viene dal professor Jeffrey Gartin, che è professore di commercio internazionale alla Yale School of Management, e la conclusione del suo articolo è molto pesante. Dice: se c'è questo rischioso, serio deterioramento del commercio internazionale dovuto al protezionismo, il danno potrebbe includere un rallentamento della crescita in tutto il mondo. È impossibile ristrutturare industrie e imprese che oramai sono globalizzate, che agiscono appunto in più paesi, come sono l'auto e l'acciaio, e quindi ci sarebbero ancora maggiori difficoltà per cercare di integrare la Cina, l'India, il Brasile, la Russia e gli altri paesi verso le economie globali, quindi con anche un rischio, diciamo, a livello politico. La crisi bancaria combinata con un peggioramento della crescita potrebbe portare a un rallentamento pesante della globalizzazione e la guerra commerciale potrebbe essere il colpo di grazia. Allora, cambiamo decisamente argomento, torniamo a cose più di casa nostra, diciamo, per almeno per il momento, finché il protezionismo non diventerà probabilmente anche da noi un argomento di dibattito normale, di dibattito intenso dal punto di vista politico. Occupiamoci di criminalità, che invece è un tema molto molto nostrano, molto noto e ricorrente anche nella stampa periodica. Partiamo da una inchiesta che viene presentata dal Venerdì, è stata presentata ieri sul Venerdì. L'autore è Emilio Marrese e la domanda è: perché i crimini calano e la paura della gente cresce? Allora, i crimini calano, lo dicono le statistiche. La paura della gente cresce, beh, questo sembra essere, diciamo, un dato di fatto. Cioè c'è in tutti noi un senso di insicurezza, di poca tutela, di poca attività nei confronti di poca attività da parte dello Stato per quanto riguarda la nostra sicurezza. Ma in questo articolo Marrese ha una lunga chiacchierata con Maurizio Fiasco, che è docente alla scuola di polizia ed è consulente sulla sicurezza per enti pubblici e privati. E Fiasco in primo luogo smonta parecchie questioni relative proprio alle statistiche sui reati, che, dicevamo, mostrano reati in calo, ma potrebbero non essere così attendibili. Dice Fiasco: non esiste un sistema credibile di comparazione. I dati delle forze dell'ordine sono un consuntivo dell'attività, non una foto del fenomeno reale. Queste ultime cifre, dice Fiasco, sono inquinate dall'effetto indulto e poi non tengono conto che c'è un sommerso crescente, cioè una serie di reati che non vengono denunciati. Infine, il reato è solo una parte del disordine percepito. Per quanto riguarda l'indulto, ne abbiamo parlato, ne abbiamo sentito parlare per parecchio tempo, sappiamo che questo fatto di avere liberato detenuti con pene inferiori a un certo numero di anni ha portato sicuramente a un effetto di insicurezza diffusa e probabilmente anche a casi di recidiva per alcuni di loro. Più interessante e meno analizzato è la questione del sommerso, perché, spiega Marrese, solo i furti d'auto per motivi assicurativi vengono denunciati nella quasi totalità. Invece molti reati minori, specie nelle grandi città, non vengono segnalati. Ad esempio, solo la metà delle rapine vengono denunciate alle autorità. Il cittadino sa che purtroppo sporgere denuncia è solo una perdita di tempo se si tratta di piccoli furti, perfino in appartamento, qualora il bottino non sia importante. A dimostrazione di tutto questo, il Maurizio Fiasco, che appunto è intervistato da Marrese, sottolinea un paradosso. Le periferie di Roma, proprio quelle dove sono avvenuti gli ultimi gravissimi fatti di cronaca, secondo le statistiche sarebbero le zone più sicure della città. Se uno guarda solo i numeri, il vero Bronx è il centro storico. Questo dipende dalla denunciabilità dei reati. Più in un'area sono presenti commissariati e stazioni di carabinieri, più i cittadini vi si rivolgeranno. Laddove c'è un solo posto di polizia e gli abitanti nemmeno sanno dove sta, il totale dei reati denunciati precipita. Ecco, c'è quindi una presenza capillare del territorio che favorisce in qualche modo la denuncia, e invece l'assenza di Stato, l'assenza di organi dello Stato sul territorio sembra scoraggiarla. Infine, il dato forse più inatteso, devo dire, di tutto l'articolo, quello del disordine complessivo che potrebbe influire sul comportamento di tutti quanti. Si spiega infatti che la disorganizzazione di una città moltiplica il messaggio di assenza di un ordine sociale. Nel tratto da casa al lavoro, ogni giorno, ognuno di noi si imbatte in una continua violazione impunita delle regole di convivenza civile. Immondizia fuori dai cassonetti, accattonaggio, auto in doppia fila, manovre scorrette nel traffico, mezzi pubblici rovinati, muri imbrattati, parcheggiatori abusivi. Tutti reati non denunciati, ma che nell'insieme producono insicurezza. La morfologia della città è sconvolta, il suo cattivo metabolismo genera stress, aggressività, disfunzione del controllo sociale. Addirittura c'è stato un criminologo, si chiama Philip Zimbardo della Stanford University, che ha teorizzato il potere della situazione. Un ambiente degradato, non necessariamente degradato a livello di grandi reati, aumenta il crimine. Non è casuale che i recenti fatti di cronaca più nera siano avvenuti in zone abbandonate, tra capannoni fatiscenti e aree dismesse. Anche le statistiche, in questo caso, confermano il nesso. Ad esempio, l'aumento di criminalità in presenza di cantieri stradali. Allora, vedremo poi se è un problema di numeri o è un problema davvero di percezione complessiva, appunto, di questi reati che, come ci avvisa il lavoro di Marrese, sono anche legati alla disorganizzazione, al disordine complessivo in cui magari ci si trova a vivere nelle grandi città. Certo che ci sono dei numeri che in qualche modo lasciano sconcertati. Sono, ad esempio, ne ho trovato uno sul magazine Corriere della Sera, lo riporta Cesare Fiumi. Si parla di uno dei reati più odiosi in assoluto, lo stupro, e riporta Fiumi, raccontando la storia poi di una ragazza che ha subito uno stupro e ne è rimasta così segnata poi da morirne a lungo andare, che a Milano ci sono 349 vittime in un anno solo allo sportello della Mangiagalli, appunto la clinica dove molte donne si rivolgono in questi casi. Si tratta praticamente di una denuncia al giorno. Qui credo che il discorso sulle percezioni debba fare un passo indietro e privilegiare invece la brutta, cruda realtà del numero. Qualcuno cerca comunque di intervenire per migliorare, se non proprio la vivibilità in senso di sicurezza, almeno quel senso di vivibilità che ci può essere dal disordine di cui si parlava prima per i grandi centri urbani. Si trovano anche delle iniziative curiose, non in Italia, anche se abbiamo visto molti comuni varare negli ultimi mesi ordinanze talvolta fantasiose. Ci riferisce il Venerdì che in Messico stanno pensando, a Città del Messico, di imporre l'obbligo di ingoiare i chewing gum, le gomme da masticare, per evitare di lordare i marciapiedi. E invece in una cittadina del Canada si sta pensando di vietare di fumare per strada. Anche questo evidentemente è ritenuto in qualche modo un comportamento che crea disordine e allarme sociale. Vi dico più nel dettaglio. A Città del Messico è stata fatta una proposta dal responsabile degli spazi pubblici della capitale, si chiama Riccardo Haral, ai propri cittadini. Ha chiesto Haral di non buttare più i chewing gum masticati sui marciapiedi, o peggio di attaccarli ai muri, alle panchine, ma di ingoiare i chewing gum anziché sputarli a terra. Tra l'altro ci sono anche delle statistiche, pare che ogni messicano mastichi mediamente 1,2 kg di gomma da masticare l'anno, e poi appunto molti di questi finiscono a terra imbrattando le strade o inquinando le aree verdi. La misura è più che altro anche pensata per risparmiare, perché eviterebbe di dover assumere troppi operatori ecologici. Cambiando stato, ma restando nello stesso continente, in Canada va in fumo la libertà di fumare per strada. Il Canada, spiega questo breve trafiletto del Venerdì, dopo il divieto di fumare nei cinema, nei locali pubblici e in auto, sta pensando allo stop nelle principali vie del centro città. La città è quella di Truro, nella Nuova Scozia, e ci sono multe da 100 a 1000 dollari per i recidivi. Quindi la prima multa sarà di 100 dollari, ma poi se si viene di nuovo pizzicati a fumare per strada, allora la multa può salire fino a 1000 dollari. Pare che un sondaggio disposto dal comune abbia segnalato che il 77% degli abitanti di questa città, Truro, sia favorevole alla norma contro il fumo, e la linea dura è stata adottata, sta venendo adottata anche nell'Ontario, nello Yukon e in altre province. Magazine 24. Non so quanti di voi abbiano seguito nei giorni scorsi la vicenda che ha visto protagonisti alcuni lavoratori italiani e portoghesi che erano stati appunto indirizzati nel Regno Unito e che hanno suscitato proteste, scioperi, sollevazioni e anche questioni politiche non indifferenti proprio in Gran Bretagna. Di tutta questa storia fa un bel resoconto l'Economist, è interessante perché l'abbiamo vissuta dalla nostra parte, ora la vediamo raccontata dalla parte opposta. Allora, innanzitutto vengono riassunti i termini della questione. Che cosa è successo, per chi non avesse seguito nel dettaglio? Che al di fuori dell'impianto di una raffineria della Lindsay Oil, appunto, siamo nel Lincolnshire, il 28 di gennaio si è scatenato uno sciopero spontaneo per protestare contro il ricorso a manodopera non britannica per lavorare a un ampliamento della raffineria. In pratica si trattava, si dice qua, di lavoratori stranieri che venivano affittati, cioè venivano temporaneamente utilizzati, spostati in quel sito per estendere appunto la raffineria. Questo spettacolo si è poi ripetuto un po' dovunque, ci sono stati degli scioperi, per così dire, di simpatia, di empatia, che precisa l'Economist sarebbero tecnicamente illegali già dal 1984, ma in qualche modo insomma sono avvenuti lo stesso, fino a che il 4 di febbraio addirittura 22 in 22 località ci sono stati questi scioperi contro l'utilizzo appunto di manodopera straniera, ripeto, non britannica, ma si trattava di italiani e portoghesi, quindi sempre stati comunitari, stati dell'Unione Europea, per la costruzione di questa raffineria. Spiega l'Economist che questi scioperi hanno dato voce a una miscela altamente infiammabile di emozioni: la paura di perdere il lavoro, la preoccupazione per l'immigrazione in generale, quindi il lavoro straniero, anche se in questo caso si trattava magari di stati che sono tradizionalmente meno percepiti come immigrati ostili in qualche modo, e anche una messa in discussione dei poteri e dei legami appunto da parte inglese con l'Unione Europea, e infine la delusione per il partito di governo, che è sembrato poco interessato, poco reattivo di fronte a questo problema. Ricorda l'Economist molto correttamente: legalmente chi protestava si muoveva su un terreno minato, perché trattandosi appunto di cittadini dell'Unione Europea, questi sono in linea generale assolutamente liberi di circolare, di lavorare in altri stati dell'Unione stessa. Tuttavia, diciamo, la protesta si è estesa molto, come abbiamo poi visto, è rientrata solo nei giorni scorsi con l'impegno dell'azienda ad assumere altrettanti lavoratori locali in qualche modo per compensare l'utilizzo temporaneo di lavoratori non locali. Questa è una storia in qualche modo emblematica di quello che succede in questi periodi di crisi, dove appunto, come riferisce questa corrispondenza dell'Economist, più paure poi si concentrano e da queste si creano anche sollevazioni spontanee. Le stiamo purtroppo vedendo legate alla crisi anche nel nostro paese in questi ultimi giorni. Ma non tutto quello che è internazionale deve essere per forza legato a cattive notizie o alla crisi. Parliamo di tutt'altri tipi di crisi, parliamo dei divorzi, perché sullo stesso numero dell'Economist si racconta dei problemi che ci possono essere in caso di matrimoni tra persone di nazionalità diversa, se questo matrimonio poi sciaguratamente non dovesse andar bene. La buona notizia, scrive l'Economist, è che gli avvocati hanno molto da lavorare in questo caso. Infatti una bella tabella che viene appunto riportata su questo numero spiega che ci sono regole diverse per questioni anche abbastanza fondamentali quando un matrimonio si dovesse rompere: i patti prematrimoniali, la suddivisione dei beni, la cura dei figli, gli assegni di mantenimento e anche la condotta eventualmente non corretta tenuta durante il matrimonio. La condotta adulterina è rilevante nel caso di un matrimonio che si interrompe in Francia. Tutto questo naturalmente genera diversi problemi quando le persone che sono state sposate provengono appunto da due stati diversi, ed è da qui che l'Economist in qualche modo dà un consiglio agli avvocati di potersi anche specializzare in questa particolare forma di diritto internazionale, quella appunto dei divorzi. E allora, visto che parliamo di famiglie, anche se in questo caso di famiglie che si rompono, quelle dei divorzi, facciamo un ritorno in Italia per una vicenda invece che riguarda i figli. C'è un'inchiesta di Guido Castellano su Panorama di questa settimana, si chiama Aiuto, mio padre mi spia. Di cosa si tratta? Dei parenti agenti, come li chiama con un gioco di parole lo stesso Castellano. Ci sono dei software che tengono sotto controllo le parole che i figli dicono sul web, ci sono dei software che intercettano tutte le telefonate e gli sms, ma anche test antidroga, orologio, scatoletta che segnalano ai genitori dove sono i loro ragazzi e a che velocità stanno guidando. Ci sono nuovi metodi per tenere sotto controllo i teenager, però gli esperti ammoniscono chi usa questi sistemi mette a rischio la fiducia e l'unità familiare. Ovviamente il consiglio dei pedagogisti è di tutt'altro genere: poca tecnologia, molta fiducia. Si riporta in evidenza il consiglio di Paolo Crepè: non esiste il kit dell'esistenza serena, avverte Crepè, non serve trasformarsi in agenti segreti per capire i figli, bisogna essere presenti e parlare. Se però ritenete che questo sia solo una parte del lavoro di genitori, beh, allora da questo articolo di Castellano si apprende che ci sono appunto questi nuovi software che stanno avendo un gran successo, tecnologie che permettono di investigare sulla vita dei figli. Ha avuto grande risonanza la notizia dell'SMS che avviserà i genitori delle assenze scolastiche, mentre, dice Castellano, non ha ancora avuto la dovuta attenzione il progetto Virtual Parent, genitore virtuale, che è voluto dalla Commissione Bicamerale per l'Infanzia ed è stato messo a punto dal CNR dell'Università di Tor Vergata. È un software che consente ai genitori un controllo su Live Messenger, che è questo sistema di messaggistica più utilizzato dai ragazzi in tutto il mondo. In pratica i genitori possono sapere, anche restando in ufficio, tutto quello che i figli digitano sulla tastiera quando chiacchierano online. In caso di messaggi dal contenuto sospetto, Virtual Parent, quel genitore virtuale, consente di risalire all'autore e di evidenziare se il mittente si è servito di speciali server per rendersi anonimo. Altra preoccupazione ricorrente riguardo ai figli, la scuola. Su Famiglia Cristiana questa settimana una inchiesta dedicata alle classi con molti stranieri, le aule restano aperte, è il titolo ottimista e ci piace concludere su questo oggi. Si racconta l'esperienza, un'esperienza di integrazione felice di alcune scuole in Toscana, dove la presenza di immigrati non ha scoraggiato né le iscrizioni dei bambini e dei ragazzi italiani e non sembra neanche aver inciso sulla ghettizzazione, ma anzi aver migliorato l'integrazione. Ci sono, ci avvisa Famiglia Cristiana, quasi oltre 500.000 di alunni stranieri, 574.133 gli alunni stranieri nelle scuole italiane e 111.000 sono nelle scuole dell'infanzia, il maggior numero di presenze è nelle primarie, nelle elementari, 217.000. E con questo dato possiamo salutare, concludere la nostra puntata di oggi. Io ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini per l'assistenza al programma, Filippo Aureggi per la regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.